9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 27 settembre qui da Oscar Giannino. Siamo eccezionalmente oggi spostati, non siamo nel nostro studio di Milano o di Roma, siamo in diretta da Genova. Perché? Perché oggi a Genova c'è una importante occasione di riflessione, c'è un bilancio sulle infrastrutture negli ultimi 10 anni, il tentativo di fare un ragionamento sulle priorità delle infrastrutture di trasporto necessarie per collegare agli assi europei l'area del nostro paese in cui si concentra più del PIL manifatturiero. E quindi questo convegno presso Confindustria di Genova vede oggi l'Unione Industriale di Genova, di Torino e di Milano fare insieme questo bilancio per l'Osservatorio Territoriale delle Infrastrutture, che compie 10 anni, quindi presenta il suo bilancio decennale, fa le previsioni per i prossimi 10 anni. Intanto, prima di entrare nel merito di questo punto, che sarà uno dei 5 punti che poi domani troverete nel manifesto nazionale lanciato da Confindustria, quello che avete trovato annunciato sui giornali per salvare l'Italia, per così dire, per segnare una discontinuità nel merito di ciò che serve per impedire che l'Italia diventi il banco di prova della tenuta dell'euro, con uno spread dai 400 punti base già intollerabile se venisse incorporato nel nostro sistema di rischio nazionale, sistema del credito e traslato alle imprese e a voi tutti che ascoltate nei fondi, salterebbe ancora più su verso quota 500. Prima di entrare nel merito di tutto questo, un breve, come sempre, bilancio di giornata, la giornata che si apre, quali sono i punti salienti di questa giornata ai quali guardare con occhio e orecchie attente. Innanzitutto lo sviluppo di ciò che è avvenuto a Washington. A Washington, lo avete capito, l'America e i paesi emergenti ci hanno tirato le orecchie e dato qualche bel calcio nel sedere a noi europei di fronte alla improntitudine con cui da 2 anni all'apertura della crisi greca non abbiamo messo in piedi un meccanismo rapidamente capace di intervenire con procedure automatiche e con dotazione finanziaria adeguata a tentare di sostenere i paesi che vanno in difficoltà come la Grecia. La Grecia è tecnicamente oggi in condizioni di semi-default, le autorità del governo greco esplicitamente parlano di un haircut, taglio dei capelli, significa taglio del capitale prestato, nell'ordine del 50% del debito pubblico greco. Su questo, la mia opinione, se volete capire rapidamente, anche se non siete tecnici della materia, quali sono i rischi di un'operazione di semi-default pilotato della Grecia, che dovrebbe rimanere nell'euro, ostante che la sua economia è poco più del 2% dell'euroarea, leggete oggi l'editoriale commento di Alessandro Penati su Repubblica, troverete spiegate tutte le delicatezze di una questione che dovrà comunque risolversi a impedire per il momento la libertà dei capitali in Grecia, per tentare di mettere una cintura di sicurezza alle banche greche a non farle saltare in aria. Bisogna molto aiutare le banche greche se vogliamo che questo semi-default sia coerente con la permanenza della Grecia nell'euro. Trovate spiegati tutti i particolari e capite perché i mercati sono giustamente fortemente scettici nei confronti di questa ipotesi. Lasciamo perdere poi se qualcosa di simile dovesse avvenire per un paese come l'Italia, che ha un peso relativo rispetto alla record dell'euro molto più elevato. Oggi sono previste aste sia italiane che spagnole. Su queste aste il debito pubblico si misura che cosa? Si misurano 3 cose. Primo, se la BCE compra al punto tale da far abbassare gli spread, sapendo che il mercato scommetterà sul contrario. Secondo, quanto il mercato scommette invece sugli swap, sui CDS, perché il mercato potrebbe essere che resti sull'onda, vista la chiusura di questa notte asiatica, della fiduccia che poi il messaggio venutoci dal G20 venga infine attuato. Terza cosa, bisogna vedere le dichiarazioni dei politici europei nell'arco della giornata. Ieri abbiamo avuto delle conferme di quanto manchi la bussola. Ci sono stati 2 membri del board della BCE che hanno detto 2 cose opposte su cosa la BCE pensa in ordine ai tassi di interesse, perché Novotny ha detto che si abbassano, mentre invece il collega Mersch ha detto che non è di quest'idea. Bisogna vedere cosa succede in Germania. Il presidente della Corte Costituzionale stamattina sui giornali tedeschi avvisa la politica tedesca che, in vista del voto previsto giovedì sull'FSF, cioè sull'attuale meccanismo finanziario europeo, state attenti, dice il presidente della Corte Costituzionale, noi siamo obbligati a ricordare a tutti i politici tedeschi che avete contratto un impegno con il popolo tedesco e quindi se ci sono finanziamenti aggiuntivi per la Germania li dovete chiedere esplicitamente al Bundestag. Una posizione di questo tipo tedesco, voi capite, che fa pensare ai mercati che siamo molto lontani dalla darci quella specie di TARP, che è l'acronimo del fondo straordinario americano che nel post Lehman fu varato dagli Stati Uniti con dotazioni fino a 800 miliardi di dollari di capitale per fronteggiare, in quel caso, che cosa? Innanzitutto il salvataggio bancario. Le banche saranno esposte in prima fila ai rischi per la carta pubblica che hanno in pancia, a cominciare da quelle francesi. avere strumenti di intervento per, sia per le aste pubbliche e ma soprattutto per le banche, serve a impedire il crack. Sul Sole 24 Ore trovate l'editoriale di oggi, Christine Lagarde, che non parla più a nome del suo paese ma parla a nome del Fondo Monetario Internazionale, e ci dice: è il tempo di agire, non di reagire. L'Europa resta indietro. Corriere della Sera, un'intervista a Jeffrey Sachs che dice: il problema dell'Italia è Berlusconi. Jeffrey Sachs, ex Fondo Monetario, ex Banca Mondiale, non proprio l'ultima delle voci in questione di autorevolezza. Ma veniamo al punto iniziale di oggi, anche se nelle telefonate vi chiedo non solo di intervenire sulle infrastrutture, ma di continuare a darci la vostra opinione su quanto morde la crisi sul vostro bilancio, cosa vi aspettate dal lancio del manifesto che domani la Presidenza Nazionale di Confindustria illustrerà, rivolgendosi a tutti gli italiani, a tutte le associazioni di categoria, a tutte le associazioni imprenditoriali, e nella speranza che la politica non equivochi, non pensi che si tratti di una specie di golpe, ma semplicemente di una voce di grande allarme, perché la discontinuità è più che mai necessaria, perché non dobbiamo aspettare che sia l'Europa a tirarci dai guai. Noi abbiamo le forze, le risorse e anche la serietà e la dignità per farlo. Il mio applauso alle parole del presidente della CEI di ieri, che oggi scandalizzano qualcuno sui giornali. Scandalizzarsi di che? Scandalizzarsi di chi si scandalizza per i toni a cui ci riserva la politica? Ma io mi scandalizzo del contrario. Allora, quali sono i nostri ospiti con cui fare queste riflessioni di oggi? Naturalmente sono i padroni di casa, per così dire, perché il convegno che inizia tra poco è sul decennale, appunto, delle infrastrutture del nord-ovest, e quindi abbiamo con noi qui, lo ringrazio, lo saluto, Guido Conforti, che ci illustra appunto i temi di questo bilancio e la prospettiva di un finanziamento difficile ma della necessità di andare avanti con la realizzazione delle opere per il nord-ovest nei prossimi anni, ed è quindi sarà Guido Conforti a parlarcene. Grazie, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Calvini. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Col quale appunto allargheremo anche un pochino la nostra ottica, continuando a parlare delle ragioni per cui Confindustria ha ritenuto, dopo mesi di richieste, che fosse necessario lanciare questo segnale che verrà presentato e illustrato domani. Allora, Calvini, cominciamo con un breve bilancio. Innanzitutto, questo osservatorio territoriale sulle infrastrutture del nord-ovest, che bilancio porta di questo decennio? C'è da essere così pessimisti sempre perché non andiamo avanti, non si trovano i soldi, eccetera? Oppure, se guardiamo a questo decennio, insomma, in realtà qualcosa si è fatto? Allora, sì e no, perché innanzitutto in questi 10 anni di vita di questo osservatorio, per fortuna abbiamo visto un progresso di tutte quelle opere infrastrutturali che appunto la regione del nord-ovest, quindi principalmente Liguria, Piemonte e Lombardia, hanno per la propria parte indicato come prioritarie, non soltanto per venire incontro alle esigenze delle singole regioni, ma soprattutto per cogliere tutte quelle che sono le necessità trasversali, quindi le sinergie che si possono fare tra vari territori se questi vengono opportunamente infrastrutturati e collegati tra di loro. Dicevo, un quadro a luce e ombre, perché tanti progetti sono oramai pronti per partire. Se volete faccio un esempio, forse quello più eclatante, che è quello del Terzo Valico, che è un progetto che è pronto per essere cantierato ormai da diversi anni, devo dire dopo almeno 110 anni di gestazione, quindi insomma è piuttosto lunga la gestazione di quest'opera, però ci siamo e siamo arrivati all'ultimo miglio, e quello che ci preoccupa oggi, e devo dire anche in relazione alla situazione, come dire, economica non solo internazionale ma del nostro paese, di cui lei prima ha dato una buona, come dire, sintesi descrittiva, temiamo che tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi poi non possa trovare, come dire, una realizzazione concreta, e questo, devo dire, ci preoccupa non poco. E infatti sono, come dire, contento che nei 5 punti che verranno presentati poi domani dalla Presidente di Confindustria, le infrastrutture sono uno di quelli più importanti, perché non c'è dubbio che insomma il nostro paese, ma sì, soltanto riferiamoci al nord-ovest, ha un gap infrastrutturale molto importante e potrebbe, come dire, se opportunamente colmato, liberare delle risorse che oggi non possono essere messe in produzione. per dare soltanto, come dire, un brevissimo quadro di quella che è la situazione, è evidente ad esempio come la Liguria può rappresentare, sempre per dare un'idea delle sinergie che ci possono essere tra territori, la Liguria è fortemente complementare rispetto agli altri territori, è evidente che la porta di accesso a una zona industriale, quella del nord-ovest, che è una delle più ricche d'Europa e rimane per fortuna una delle più ricche d'Europa con un altissimo tasso di manifattura, e beh, se il collegamento non viene, si inceppa, è evidente che da un lato sì, la Liguria rimane isolata, ma dall'altro rischia anche i territori del nord-ovest di avere dei costi logistici, quindi delle economie esterne che non la rendono competitiva rispetto ad altre grandi regioni che ci sono nella Francia, nella Germania, che oggi si stanno difendendo molto bene in un contesto competitivo molto molto come dire, forte e accentuato. Conforti, in questi anni l'impressione è stata, anni fatti di restrizioni progressive ovviamente e di richiamo energico da parte di Roma col taglio dei trasferimenti per rispetto del patto di stabilità interna alle autonomie, in questi anni si è avuto un po' l'impressione che l'incapacità di avere procedure efficaci sui tempi di realizzazione e le conseguenze naturalmente che questo ha per l'attrattività del capitale privato, che senza tempi certi non può concorrere con entusiasmo o con certezza, perché non sa calcolare la redditività del capitale, al finanziamento di opere pubbliche, collegato al taglio dei trasferimenti pubblici e collegato alla riduzione generale degli investimenti, che è stata una delle vie sbagliate a mio giudizio per perseguire il risanamento del bilancio pubblico in questi anni, questi tre fattori abbiano portato le grandi piattaforme nazionali logistiche, come in questo caso nel nord-ovest, cioè quella di Genova, quella di Milano, quella di Torino, più a concorrere disperatamente alla ricerca di strappare dopo le delibere CIPE qualche pezzo di finanziamento per andare avanti con le opere, piuttosto che un quadro d'insieme nei trasporti, un po' come l'energia. È quasi impossibile averlo perché abbiamo la competenza concorrente delle regioni, non c'è una clausola di supremazia nazionale che funzioni davvero. Dall'altra parte, in questo quadro di finanza pubblica si aggiungono nel tempo ovviamente anche downgrade come quello di ieri, che ha riguardato 11 importanti enti locali, tra cui Genova, Milano, quindi esattamente quelli di cui stiamo parlando. In questo il bilancio di questi ultimi anni e soprattutto la lista delle cose che sono in progresso, che è una delle cose più interessanti del rapporto che lei illustra tra poco, come si coniuga con questo quadro di finanza pubblica? La domanda è assolutamente centrale e direi che sta alla base della scelta che hanno fatto le associazioni industriali 10 anni fa di Torino, di Milano e di Genova di lavorare su questo tema insieme. 10 anni fa infatti, la rivendicazione del potenziamento infrastrutturali erano questioni prevalentemente localistiche per singole opere, talvolta per singole tratte, mentre invece è evidente che o il Nord-Ovest, che è una regione economicamente, politicamente, socialmente estremamente interrelata, si dota di un sistema infrastrutturale omogeneo e sistemico, come si direbbe, oppure non ne esce. E quindi abbiamo incominciato proprio come mondo delle imprese a cercare di capire quali sono le vere priorità che ha questo territorio, a prescindere dalla collocazione geografica di dove gli interventi sono da farsi. E quindi, come dire, indirizzare la nostra attività di osservatorio, che poi quindi è un po' indiretta su questo tema, cercando di far passare un concetto anzitutto culturale, cioè di capire che il tema è da affrontare in termini integrati, parlando di infrastrutture, ma soprattutto parlando anche di servizi per la mobilità delle merci e dei trasporti che sulle infrastrutture devono andare. E anche in questo caso l'approccio integrato è necessario. Faccio un esempio concreto. L'impressione è dovuta anche alle priorità rispetto alle risorse dei piani di investimento di Trenitalia, del gruppo Ferrovie dello Stato, che nell'assenza di un piano di trasporti nazionale finisce in realtà per essere uno dei veri motori che definiscono le priorità, al di là delle delibere CIPE e delle quote di finanziamento, e Trenitalia che decide che cosa è prioritario per Trenitalia e finisce per diventare sul trasporto, sulle assi di trasporto ferroviario, quello che è prioritario per il paese. In questi anni è sembrato quasi che emergesse una specie di contrapposizione tra l'asse est-ovest di collegamento Torino-Venezia, per così dire, il completamento dell'alta velocità, no? Che si ferma adesso a metà del Veneto, collegamento rispetto al collegamento invece sull'asse verso il nord Europa da Genova. Una delle ragioni per cui si tende a pensare che l'enorme ritardo del terzo valico rispetto all'asse Torino-Lione e tutto quello che è collegato sulla Torino-Lione viene vissuto anche come questa specie di contrapposizione. È fondata questa contrapposizione, perdurerà oppure non è fondata e si può andare avanti insieme sull'asse est-ovest e nord-sud? Certamente è un argomento di discussione, credo anche nel convegno che seguirà a breve. Per tornare a quanto dicevo prima, il nostro approccio come mondo dell'impresa è che le due cose sono non in concorrenza l'una con l'altro, rispondono a esigenze di trasporto profondamente diverse, nascono da un disegno europeo che ne prevede entrambe. E quindi dal nostro punto di vista è necessario operare per risolvere i problemi di varia natura, di consenso, di progettazione, soprattutto di finanziamento, che si frappongono alla loro completamento. Considerando che ci sono dei tempi anche che aleggiano, nel senso che soprattutto per quanto riguarda il corridoio nord-sud, che è quello su cui poi siamo più impegnati territorialmente, abbiamo come dire, tutta una serie di interventi già in essere, addirittura già realizzati a nord delle Alpi. Il tunnel del Lötschberg in questo decennio si è aperto, seppure a una canna sola. Il tunnel del Gottardo pochi mesi fa ha battuto l'ultimo diaframma e ha tempi definiti per il suo completamento. E quindi il problema di un collegamento nord-sud tra i porti liguri e la pianura padana e nord Europa è vitale per la logistica che si connette con la portualità. Il tema della Transpadana è altrettanto vitale per un collegamento trasversale, veloce, efficiente sulla pianura padana e con i territori a est e a ovest dell'Italia, non è in concorrenza con questo, se non nella penuria di risorse pubbliche atte a finanziare delle opere che non sempre, che hanno dei margini di ritorno del capitale investito molto bassi, soprattutto per quanto riguarda le opere che comportano un abbattimento di barriere montuose e quindi molto brevi in termini di tratta, ma con margini di redditività mirate scarse. Il problema è che non sono da concepirsi in sé, come un'opera in sé, ma sono da collegarsi all'interno di un sistema infrastrutturale di carattere europeo molto più complesso e vitale. Allora, nel frattempo il mercato borsistico è partito in questi primi decine di minuti con un segno più molto deciso, più 2,2, più 2,3%, con i bancari che guidano, con Intesa che è oltre il 4%, quindi la mattinata comincia bene. Bisogna vedere i segnali della mezzogiornata, sono quelli delle aste. Ricordate che le aste pubbliche si tengono sempre non troppo prima dell'apertura dei mercati americani, perché ricordate poi che è il capitale estero quello che è decisivo su le aste dei titoli pubblici. Iniziamo con qualche ascoltatore. Gianni da Milano. Prego Gianni. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno Giannino. La mia osservazione era un po' questa. E fondamentalmente, senza fare troppa esagenesi di ciò che è successo, se abbiamo in questo momento un debito pubblico al 120% del PIL, comunque non possiamo essere paradossalmente credibili, anche se un domani dovesse entrare in vigore finalmente questo pareggio di bilancio costituzionale, però quantomeno tornare al 100% del PIL è la parte più impellente. Di modo che possiamo quantomeno vendere le nostre obbligazioni anche a noi stessi, perché cominciamo a non essere più sicuri neanche noi di comprarle, quindi al di là del fatto che arrivino investitori esteri, cinesi o no, io credo che nemmeno gli italiani, che già non hanno una grande propensione al rischio, stanno cominciando a comprare bund anziché titoli italiani. Quindi se arrivi al 100% del PIL, fai un grosso sforzo, magari ti fai aiutare un attimino dalla Germania o dall'Europa per fare quest'ultimo gap di ritorno del 20%, e così diciamo assesti e ricominci un pochino con uno spread sui 180-200 punti. E dovesse dire lei al volo però in 10 secondi come si abbatte di 20 punti lo stock di debito pubblico, lei come farebbe? Ma per abbattere abbastanza rapidamente, diciamo, posso decidere di andare a prendere direttamente dall'Europa un 50% di questa parte e magari rimborsarla in 10 anni al 2%, magari te la dà pure, perché comunque il vantaggio indotto di non avere l'Italia sempre costantemente in crisi. E per il resto ovviamente devi fare una divisione equa tra le grandi, diciamo, i grandi centri di potere e poi anche i medi centri di potere, senza gravare troppo sui piccoli, è meglio. Vabbè, Gianni, guarda, l'Europa 10 punti di PIL, il prestito per 10 punti di PIL per rientrare non ce lo dà oggi, questo è poco mai sicuro, non so se è chiaro. Da 2 anni stentiamo a trovare un accordo per coprire le tranche in scadenza del debito greco, figuriamoci 10 punti di PIL all'Italia, oggi i tedeschi su questo proprio non credo proprio. La questione lì è se fare dismissioni o se fare dismissioni patrimoniali o se fare niente dismissioni come la politica pubblica, voglio dire, fino a questo momento ha detto fare solo patrimoniali, ma insomma lì giriamo per abbattimenti in tempi rapidi dello stock patrimoniale di debito pubblico. Ripartiamo di qui chiedendolo poi al Presidente qui dell'Unione Confindustria di Genova, qual è la sua opinione, questo sarà un altro dei 5 punti che c'è domani nel manifesto di Confindustria, questo di una manovra rapida, credibile per l'abbattimento di una parte considerevole, significativa, credibile dello stock di debito pubblico. Eccoci tornati qua in studio, siamo da Genova con Guido Conforti per l'Osservatorio Territoriale Infrastruttura per il Nord Ovest, che unisce in una piattaforma comune di riflessione insomma le grandi unioni industriali di Torino, di Milano e di Genova, e che oggi fa un bilancio di questi decenni proponendo alla politica e a tutta la comunità delle imprese una lista di priorità per i prossimi 10 anni. C'è anche l'Expo di Milano, non ce lo dimentichiamo, che malgrado tutte le sue difficoltà, i suoi ritardi, i tagli anche di queste ultime settimane, è comunque una grande occasione per tutti di proiezione verso il mondo. Ed è con noi anche il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Calvini. Ancora una telefonata e poi vediamo come la pensa il presidente Calvini su questo nodo. C'è una via per abbattere credibilmente il debito pubblico senza pescare troppo pesantemente? Io direi per niente, ma altri dicono senza pescare troppo pesantemente nelle tasche degli italiani. Amelio da Modena, lei come la pensa? Amelio, prego. Buongiorno. Ma io ho sentito così, pensavo un attimo che abbattere il debito pubblico di 20 punti, come diceva il signore in precedenza, non è tanto facile, però le condizioni si trovano sicuramente, perché poi gli italiani in questo sono molto attenti, insomma sono disponibili. Ma alla monte c'è un problema. Tanto per avere a meglio un ordine di grandezza per chi è a casa, 20 punti di debito pubblico, abbiamo presente quanti sono, sì. Sono parecchie, adesso non ricordo bene il numero, lo sentivo l'altro giorno che se ne parlava, ma diciamo di 20. No, perché 20 punti sono 300 miliardi di euro, insomma esatto. Non proprio peanuts, come si dice in parlavo poi degli non immobili. Noccioline. Noi abbiamo un totale debito pubblico che è superiore ai 1.900 miliardi attualmente. Sì, ricordo chi è in ascolto che se lo facciamo a prezzi correnti, non aggiornati, ma prezzi correnti anno per anno, una delle grandi bubole della Seconda Repubblica è dire che l'hanno trovato tutto ereditato. Alla fine della Prima Repubblica, cioè il settimo governo Andreotti, prima dei governi di transizione, il totale del debito pubblico accumulato all'epoca, quindi nel 1992-93, era inferiore della metà ai prezzi correnti di allora rispetto a quello di oggi, per essere chiari. Quindi se andiamo a vedere la Seconda Repubblica in 17 anni a prezzi correnti, ripeto, quindi senza applicare il deflatore, ha accumulato più, sottolineo, più debito pubblico di tutto quello ereditato dalla Prima Repubblica. Naturalmente non applicare il deflatore significa non fare le proporzioni rispetto al PIL del debito pubblico anno per anno, lo dico perché altrimenti chi è in ascolto del centrodestra pensa che sto truccando i numeri, sto dando anche le istruzioni tecniche per farlo, ma siccome quello che conta è lo stock anno per anno quando va in scadenza totale del debito pubblico, fare il rapporto sul PIL è una delle tecniche che me non ha mai convinto, e lo dico sempre agli studenti, perché se nel frattempo un PIL di un paese raddoppia, se uguale resta la proporzione, non si spiega al contribuente che nel frattempo è raddoppiato anche il debito pubblico rispetto a quello che c'era prima, perché la politica ne ha approfittato. Quindi guardare solo il rapporto del debito pubblico sul PIL è una maniera un pochino, diciamo, illusoria, è una delle tecniche della grande fumisteria doppio di cui la politica è specialista nel non far capire ai contribuenti e alle imprese quanto rapinose e artigliate siano le sue zampe. E rispetto a ciò che ci dà, che cosa ci dà? Il rischio di diventare il paese su cui salta l'euro. Su questo i politici dovrebbero stare in ginocchio, con le noccioline sotto le ginocchia, e parlare con molta meno alterigia di quello che si permettono. Naturalmente io posso permettermi di usare questi toni leggermente sprezzanti, non può fare la stessa cosa un presidente di un'industriale come quella di Genova, ma in realtà, presidente Calvini, la sua opinione è 20 punti di PIL di debito pubblico, che sono tanti, ma esiste un modo per abbatterli senza piegare ulteriormente l'economia italiana? Ma innanzitutto io credo che vada un po' invertito il pensiero del primo ascoltatore, che dice prima dobbiamo, come dire, chiedere risorse all'Europa e poi mettere mani nelle nostre tasche per risolvere il problema. Il debito è un problema strutturale che va risolto con soluzioni strutturali e quindi con interventi che vanno dalle riforme alla alienazione di una parte del patrimonio dello Stato che credo sia consistente. Se ci mettiamo a fare un'analisi a partire ognuno in casa propria dagli enti locali e facciamo la lista di quelli che sono gli immobili di proprietà degli enti locali, le aziende di proprietà degli enti locali che oltre a essere un patrimonio spesso costituiscono anche un intralcio al libero esercizio dell'impresa in un mercato concorrenziale, ebbene se facessimo un censimento di tutto quello che oggi lo Stato ha a disposizione e che potrebbe in qualche modo mettere sul mercato e alienare, credo che una parte del problema potrebbe essere risolto, quindi privatizzazioni e liberalizzazioni, se vogliamo, con lì è più un fatto che interviene sul numero, quello della crescita più che sul debito. Però io penso che insomma mettere mano e ovviamente una forte attenzione poi negli anni futuri al cosiddetto pareggio di bilancio o perlomeno gestione del deficit dello Stato in maniera gestione intelligente del deficit dello Stato. Revisione della spesa e non taglio trasversale come è stato fatto fino ad oggi, io penso che possono essere tutta una serie di interventi che magari non ci risolvono quel 20% di debito di cui tutti quanti dicono che abbiamo bisogno, però non c'è dubbio che ci mettono nelle condizioni di ricevere eventualmente aiuti dall'esterno a delle condizioni che non sono condizioni capestro, perché se noi oggi ci presentiamo alla comunità internazionale e chiediamo un aiuto senza fare nulla, voglio dire, aggiungiamo debito, cambiamo il debito con qualcos'altro che è molto simile a un debito. Quindi, insomma, io credo che sia prioritario innanzitutto mettere mano a riforme strutturali con coraggio, con forza, ma va fatto partendo anche basso dai territori fino ad arrivare poi alle grandi, nodi nazionali che sicuramente possono rappresentare anche insomma numeri grossi e interessanti. Io lo dico a chi è in ascolto, una delle modalità, perché molti si preoccupano, arrivano sms al nostro 349-238-6666 che ci dicono ma con questi tempi, con i mercati così, cosa volete cessioni pubbliche? Dunque, ricordo che in ascolto che il conto patrimoniale del Tesoro stima che la parte cedibile da mettere a reddito del patrimonio immobiliare pubblico, quindi non sto parlando del Colosseo, sto parlando dei palazzi, non di beni vincolati dalle sovrintendenze architettoniche, monumentali, eccetera, stava tra i 250 e i 300 miliardi. 250 e 300 miliardi sono quelli cedibili o da mettere a reddito. Cosa significa? Significa che nel nostro paese in realtà i prezzi immobiliari sono andati a picco come negli altri paesi occidentali? No. Significa che si vendono tutti contemporaneamente per un valore di 100 miliardi, 80 miliardi? No, alla luce delle esperienze CIP 1, 2 e 3 fatte da Tremonti, molto criticate. Ma a quel punto esistono vie di mercato per farlo. Per esempio, si può fare un fondo immobiliare in cui si mettono immediatamente dentro, non dico buona parte o metà, ma quasi 70-80 miliardi di questo patrimonio. Questo fondo può offrire a tutti i cittadini italiani che siano titolari di titoli del debito pubblico, BOT, BTP, CTZ, di qualunque tipo, la possibilità di conversione in proprie obbligazioni in cambio di debito pubblico conferito. Quella diventa una modalità per l'estinzione del debito pubblico conferito, garantito invece dagli asset che vengono poi via via ceduti o messi a reddito. Cioè la finanza non è solo una roba che serve per fregarvi, cari amici in ascolto, quindi le modalità ci sono, basta che la politica lo voglia, basta che molli le sue mani. E a chi obietta, ma se 4/5 di questo patrimonio è nelle mani degli enti locali, come si fa? Allora si apre un grande tavolo di compartecipazione tra Stato ed enti locali che renda compatibili le cessioni e le compartecipazioni da cessioni anche con rispetto al patto di stabilità interna rispetto ai tagli e al famoso federalismo. Quindi esistono modalità per fare questo, se solo si decide di farlo e si ha la faccia per poterlo fare, invece di pensare a quello che le intercettazioni ci mettono tutti i giorni sotto il naso. E non sto difendendo l'istituto barbaro delle 100.000 intercettazioni, ma dico che c'è un quadro generale rispetto al quale viva il cardinal Bagnasco. Antonio, dalla provincia di Ferrara, prego Antonio, lei come la pensa? Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Allora io secondo me la prima cosa da fare è di eliminare, ma da subito, non fra 10 anni, tutti gli sprechi che la politica crea quotidianamente. E questa è, da qui no, si può partire. Dopodiché, per poter rilanciare diciamo così una Antonio crescita, non la interrompo solo per dire che trovo sulla prima pagina di oggi una bella notizia sparata a mezza pagina al Taglio Centrale, che dice: i 7 miliardi di tagli ai ministeri non attribuiti è scaduto il termine per emanare il decreto di attuazione della manovra approvata 2 mesi fa. Questo per dire, quando si tratta di tagliare gli sprechi, anche il governo che dice siamo pronti a fare tutto, intanto tra loro non si sono messi d'accordo. Prego, l'ho interrotta, vada avanti. No, no, grazie, grazie, comunque era utile. Il problema è questo, che noi abbiamo una classe di chi ci rappresenta che è completamente inadeguata, pensano ad altro ma non pensano al paese. Allora dicevo, la prima cosa, tagliare tutti gli sprechi, ma... E la seconda? La seconda? E la seconda, per far la crescita bisogna andare a prendere i soldi lì dove ci sono, perché se e noi... dove ci sono? E dove ci sono? In base ai redditi, francamente. Patrimoniale, è finalmente una voce, perché siccome sono tanti gli italiani che la pensano come lei, grazie Antonio, lei ci dice patrimoniale. Franco da Roma, Franco da Roma invece come la pensa? Ecco, Franco da Roma, Franco? Dice semplicemente, sì. Dottor Giannino, che io la sento spesso, è una persona eccezionale, ho un'estima enorme. Niente complimenti. Io dico molto semplicemente, però lei un errore commette, non ricorda mai che Prodi aveva portato il debito pubblico a 104 su 100, anzi 103,9, lo possiamo vedere tutti su internet, e basta vedere la serie storica del debito pubblico. Questo non è corretto da parte sua. Allora, se vuole aggiungo che nella produzione di debito pubblico Prodie, giorno per giorno i governi in carica, il record è detenuto dal primo governo Berlusconi del 94 e dall'attuale governo Berlusconi, quindi guardi, siccome questi sono i dati storici, le do ragione, ma non è che nascondo nulla. Comunque, prego Franco, rapido. Ma ogni tanto diciamole queste cose, ricordiamo che è stata una scelta degli italiani, adesso gli italiani devono pagare tutti insieme. Io sono pensionato, se me levano 100 euro di pensione, voglio essere paradossale, sono 1300 euro l'anno, a me probabilmente non mi fanno del male, però magari a mio figlio, se su un reddito lordo di 1600 euro gliene danno 1450 o 1500, circa 1500, secondo me risana nel paese. Però è chiaro che l'intervento sulle pensioni significa patrimoniale, questo mettiamocelo bene in testa, perché la gente o ha pagato i contributi oppure si è fatti i beni evadendo le tasse e non pagando i contributi. Su grazie Franco, dice no. Patrimoniale anche lei, qui nessuno pensa di tagliare le tasse, le pensioni oggi esistenti. Il problema, questo lo chiediamo al presidente, è che suo figlio se la scorda la pensione a 1300 euro, quindi si tratta magari di accelerare la convergenza tra trattamenti di anzianità e di vecchiaia per impedire che i milioni di italiani che noi abbiamo pensionato a 50 anni, quando erano cinquantenni, diventino un problema di squilibrio di giustizia terrificante rispetto a ciò che diamo ai loro figli. Allora, abbiamo ancora Andrea da Roma? Buongiorno a tutti. Due domande veloci. Volevo sapere se è possibile per lo Stato italiano emettere dei titoli con uno spread più basso rispetto a quello attuale, visto che essendo... No, Andrea, proprio ci manca il fondamentale. Non è lo spread non è qualcosa che decide lo Stato all'emissione, lo spread lo decidono i mercati ora per ora sul premio a rischio che vedono tra i titoli italiani e quelli di corrispondente durata tedeschi, che sono quelli di riferimento, perché naturalmente sono quelli più sicuri. Attenzione che anche i rendimenti dei titoli tedeschi da una settimana a questa parte stanno salendo. Non è all'emissione, quindi bocciato all'esame, Andrea. Luciano da Modena. Buongiorno, dottor Giannino, a lei e ai suoi ospiti. Volevo porle una domanda. Io paragonavo lo Stato italiano con una famiglia che ha un reddito annuale di 10.000 euro e un debito di 12.000 euro. È un paragone che può essere accettabile? No, non è accettabile, perché sa, magari noi avessimo, sì, più o meno, diciamo che è accettabile. In realtà è un po' di più ancora il debito, però diciamo così, vada avanti. Credo che una famiglia in queste condizioni, cioè lo Stato attuale, spende più di 10.000 euro l'anno. Il problema è quello. No, cioè, io credo... lo Stato attuale come fa a spendere? Lo Stato attuale spende il 52% di 10.000 euro l'anno. Ah sì? Allora... spende il 52,5% del PIL, lo Stato, cioè il totale di ciò che è intermedia, è il 52,5% del PIL, cioè più o meno un po' più di 800 miliardi di euro. Questo è quello che spende lo Stato. E quindi l'esempio non sta in piedi. Esatto, semplicemente una famiglia in condizioni dovrebbe spendere meno di quello che, cioè, meno di quello che guadagna, meno del PIL, per poter risolvere i suoi problemi. Credo che sia ma quello. Lo Stato spende poco più di metà del PIL, che però è l'ira di Dio, e lo Stato ha speso per molti anni molto più di quello che prendeva dal PIL tramite le entrate, quindi ha accumulato deficit e debito. Il problema non è tanto questo, vede, l'equilibrio non è indifferente rispetto al livello in cui si realizza, lo dico Luciano a tutti quelli che ci ascoltano. È sbagliato ciò che è stato fatto in questi anni, cioè realizzare, inseguire il pareggio di bilancio, le manovre fatte per contenere il deficit solo alzando le tasse, perché diverso è l'effetto su un'economia quando l'equilibrio si raggiunge a un livello di spesa e di entrate in pareggio più basso, quando invece, come nel nostro caso, lo si insegue sempre con livello più alto, perché aumentano i disincentivi e le distorsioni, c'è un disincentivo all'offerta aggiuntiva di lavoro, alla domanda aggiuntiva di lavoro, per questo cresciamo poco. Capisco che questo ragionamento non convinca molti che sono convinti che lo Stato può fare a prendersi anche il 60%, il risultato è che non si cresce più. Allora, adesso abbiamo un minuto di informazione stradale e poi torniamo con i nostri due ospiti che abbiamo tacitato per i nostri ascoltatori, con un po' di risposte agli ascoltatori e con conforti anche una domanda che gli devo fare tornando al nodo delle infrastrutture. Purtroppo tra noi qui al tavolo a Genova dovevamo un po' ridacchiare amaramente di fronte agli 8 chilometri qui a Genova, che erano annunciati le nostre informazioni sulla circolazione stradale. Io volevo fare una domanda chiedendo a conforti, ma in questi anni noi uno dei grandi problemi poi Genova, la Liguria, i porti in parole povere, è stato quello di non riuscire a vedere una riflessione di fondo, la capacità cioè di sapere disconnettere dalla totalità delle autorità portuali italiane quelle che davvero sono più rilevanti, distinguendo insomma porti di vera prima priorità per gli assi di trasporto logistici e commerciali e per l'export e l'import del nostro paese rispetto a tutti gli altri. Ora si torna a parlare di retrocessione di una parte dell'IVA ai porti per la capacità di dotarli di un minimo di realizzazione infrastrutturale, visto che si stenta molto altrimenti alla scontabilità degli investimenti che possono portare anche privati a scommettere su terminali logistici, i grandi colossi, quelli della logistica navale come Maersk e così via. Da questo punto di vista il bilancio che traete e la proiezione che fate è ottimistico, oppure continuiamo ad avere tempi incompatibili con il fatto di intercettare traffico che continuerà ad andare al porti a nord Europa? Beh, intanto c'è una questione di proporzioni tra il traffico che accede ai nostri porti italiani e quelli liguri in particolare con quelli del nord Europa, che producono volumi di traffico incommensurabili, mentre più grandi, e tra l'altro molti di questi anche diretti alle imprese italiane. Ieri c'è stato un convegno in Camera di Commercio, un intervento che ha stimato da parte del Certet Bocconi in 500.000 i TIO annui che vengono sbarcati nei porti del nord e sono diretti alle regioni. I TIO sono i container, per chi non segue troppo gli acronimi tecnici. Sì. Ciò detto, però, i porti liguri stanno investendo in maniera significativa per aumentare le infrastrutture destinate ai terminal contenitori, non soltanto contenitori dei porti liguri. È in previsione, in costruzione, una importante piattaforma Vado di Maersk. Sono in corso degli riempimenti importanti nel porto di Genova, che creeranno due nuovi terminal contenitori rilevanti, e sono previsti progetti anche nel porto di La Spezia. Il problema di finanziare questi interventi e quelli che potranno intervenire, ma soprattutto di non isolare questi interventi, cioè collegarli a infrastrutture di trasporto, soprattutto trasporto ferroviario efficienti, si sconta proprio, come diceva lei, sul problema delle risorse finanziarie. Per il tema dell'extragettito, vagamente inteso, perché ha avuto anche passaggi legislativi in questi anni, secondo proposta noi, di riforma della commissione Grillo in Senato, ma certo, però poi il ministro non ne ha mai voluto sentire parlare, Tremonti. Secondo noi è ragionevole e ben posto, cioè quasi un passaggio necessario, cioè lo Stato dalla non possibilità di acquisire gettito per mancanza di infrastrutture adeguate ha una perdita finanziaria importante, e l'idea di dirottare una parte di questi extragettito possibili sul finanziamento di infrastrutture dedicate a territori che hanno queste potenzialità è poi la via necessaria. Anche un accrescimento dei traffici e quindi anche del gettito complessivo, certo, per lo Stato, certo, quindi si tratta, questa non è una specie di retrocessione a fondo perduto. Lei prima ha detto c'è difficoltà in questo paese a distinguere tra quelle che sono le autorità portuali strategiche e quelle che invece sono marginali. Una vera riforma nella direzione dell'autonomia finanziaria dei porti, si è fatta nella maniera opportuna e quindi incentrata sul merito, quindi dei porti, automaticamente fa la selezione, perché i porti che sanno investire, utilizzare bene queste risorse vanno avanti, crescono e ne producono sempre di più. I porti che non hanno senso piano piano verranno marginalizzati o spariranno o faranno qualcos'altro, quindi questa dovrebbe essere la riforma delle riforme per quanto riguarda la portualità italiana. Allora, noi avevo un ascoltatore da Biella, ma in questo momento mi è naturalmente, questo è il fascino della diretta, ti salta il collegamento, l'ascoltatore da Biella, qualcuno... Eccolo qua, Alberto, Alberto da Biella, prego Alberto, rapidissimo però deve essere. Buongiorno dottor Giannino, volevo dire due cose, ma visto che bisogna essere rapidi ne dico una sola. Io sono pienamente d'accordo con lei con il fondo relativo ai beni pubblici immobiliari. Volevo, fondo di conversione però, volontario per chi ha titoli di debito pubblico. Ecco, sì. Io però toglierei il volontario, cioè lo mixerei con il discorso della patrimoniale, cioè anziché dare... cioè lei dice che deve essere obbligatorio? Esatto, cioè anziché istituire una patrimoniale pure... Ma perché c'avete st'idea sempre che lo Stato deve obbligare tutto? Ma però dica. Sì, è un addolcimento della patrimoniale, perché una patrimoniale secca praticamente sono soldi presi e buttati via, diciamo sì. Così. Abbia pazienza. No, ma io infatti sono contrario alla patrimoniale perché l'esperienza del governo Amato ci dice che se diamo una patrimoniale senza vincoli precisi, incatenare le mani alla politica, gli diamo semplicemente tempo e lei continua a fare quello che vuole. Quindi la patrimoniale, secondo me, finché lo Stato ha attivi superiori al debito pubblico, lui ha fatto debito, lui ne risponde. Se Giannino ha fatto un debito e ha garanzie reali, non credo che vada al presidente Calvini e dice: presidente Calvini, pagami tu il debito. Perché il presidente Calvini mi dice: no, prima ti vendi la tua casa se ce n'hai una. Ecco, lo Stato deve fare la stessa roba. Però attenzione, perché ci dobbiamo salutare, ma domani vedrete con ogni probabilità che nel manifesto nazionale Salvare l'Italia, chiamato così per capirci, i 5 punti di Confindustria per la discontinuità necessaria a evitare che l'Italia diventi il banco di prova della tenuta dell'euro e ci tenga in piedi con le nostre forze, chiedendo un sussulto di dignità e di discontinuità alla politica, c'è anche la disponibilità a una patrimoniale. C'è anche la disponibilità a una patrimoniale. Quindi Giannino finisce in minoranza, lo dichiara. E questo mi riempirà di gioia perché potrò finalmente avere un altro argomento per criticare l'editore e quindi meritarvi il vostro plauso, per così dire. Io ringrazio Conforti e Calvini, noi adesso ci trasferiamo sotto a fare il convegno. Grazie a chi ci ascolta e perdono agli ascoltatori che non abbiamo ancora mandato in onda. Linea Generale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto.